Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Torino, 7 marzo 2001. Arrestato Maurizio Minghella, il mostro del Giro del Vento. La musica è assordante e le luci psichedeliche danno come un senso di vertigine. Lui si guarda intorno come esaltato, stivaletti a punta, come si conviene per le grandi occasioni, ed una marcia in più, un ego spropositato. Balla e si dimena sorridendo. Una donna gli si avvicina con la sigaretta in bocca. Lui sorride sicuro di sé ed ammicca. Lei lo osserva da vicino. È carina ed indossa un vestitino rosso. Non può sapere di aver appena incontrato un mostro, il mostro del Giro del Vento. Già, perché lui è Maurizio Minghella, detto il John Travolta della Valpolcevera. Ho avuto 100 donne, voglio arrivare a 1000, ama ripetere a tutti. Eppure Maurizio non è né brillante né sicuro di sé, anzi, esattamente il contrario. Maurizio è fragile ed accusa una certa inferiorità psicologica, soprattutto con le donne. Classe 1958 è un'infanzia difficile. Quando ha 6 anni, la madre si separa dal marito violento e cresce da sola lui e altri 4 figli. Dopo qualche tempo, lei trova un nuovo compagno non migliore del marito che si ubriaca e la picchia continuamente. Maurizio cova rancore. Frequenta la scuola senza riuscire a superare la seconda elementare e a 12 anni frequenta ancora la prima. Si appassiona al pugilato, ma poi viene cacciato dalla palestra perché picchia senza rispettare le regole. Infine, un suo fratello muore in moto. Non si sa come, ma da questo ultimo episodio Maurizio Minghella comincerà a sviluppare una morbosa attrazione per i morti. Proverà piacere nell'assistere al dolore delle famiglie, anche se il vero piacere in assoluto lo scoprirà successivamente. Riformato dal servizio di leva per disturbi psichici, sposa nel 1977 una quindicenne dipendente dagli psicofarmaci. La ragazza muore in seguito ad un'overdose di farmaci dopo un aborto spontaneo. Questo avvenimento traumatizza ulteriormente il Minghella e la sua fragile personalità. Comincia a odiare le donne. Inizia così una vera e propria missione, quella di uccidere. Maurizio ha bisogno di infierire sulle vittime designate e non usa solo le mani. Ama torturarle prima di soffocarle, perché è così che raggiunge l'orgasmo. Le sue vittime sono donne, in particolare prostitute. La mattanza inizia una sera di aprile, il 1978. La sua prima vittima è una prostituta tossica. Viene ritrovata con il corpo martoriato e lacerato dall'infamia. Qualche mese più tardi vengono ammazzate altre 4 ragazze di strada, tutte seviziate, strangolate e orrendamente mutilate. Maurizio viene arrestato e condannato all'ergastolo. In carcere è un detenuto modello. Il suo comportamento induce i giudici a conferirgli una nuova possibilità, la semilibertà. Corre l'anno 1995. Maurizio esce di giorno per lavorare. Grazie all'interessamento di assistenti sociali trova un'occupazione in qualità di falegname nella comunità del gruppo Abele di Don Ciotti a Torino. È qui che conosce una ragazza che le darà un figlio. Sembra mettere la testa a posto. Tutti ormai sono convinti della svolta. Maurizio ha cambiato vita. In realtà non è proprio così. Siamo ormai nel 1996 e Maurizio si assenta sempre più spesso dal lavoro con scuse poco plausibili. Nel contempo, Torino è nuovamente colpita da una serie di efferati omicidi. Prostitute, naturalmente. La polizia riapre le indagini e le comparazioni con i suoi vecchi omicidi non danno scampo. Per lui è finita. Viene condannato nuovamente all'ergastolo. Maurizio ora è anche il mostro di Torino, condannato a 131 anni di carcere per l'omicidio di 10 prostitute a Torino ed altre 5 accertate a Genova. Una delle tante ipotesi legate alle fantasie criminali di Maurizio ha ricondotto a dei fumetti che lui amava leggere da ragazzo. Storie di sesso malato. E già, perché Maurizio ha ucciso proprio come descritto in quei fumetti. Ha ucciso perché il suo vero problema era legato alla virilità. La musica dei Bee Gees in onda il locale con Stayin' Alive. La donna con il vestitino rosso lo rapisce con uno sguardo e si allontana sculettando. Lui la segue. Si imboscano nell'auto di lui, nel parcheggio. Ma Maurizio è agitato. Lei cerca di calmarlo, ma comincia anche ad aver paura. Lei ha capito. Tenta la sola carta che può permettersi, l'unica che può salvarle la vita. Lo compiace ed inizia a fingere di godere. Lui è spiazzato e lascia la presa. La ragazza dal vestitino rosso esce dall'auto e lo bacia sulla fronte. Si allontana verso la discoteca con i brividi sulla schiena ed il cuore che batte forte. La ragazza del vestitino rosso è viva. Lei non può sapere di aver appena incontrato un mostro, il mostro del giro del vento. Maurizio Blini, in libreria con L'Uomo delle Lucertole, AEB Editore, 320 pagine, €19,50. Per riascoltare tutte le storiacce d'autore, radio24.it. Ci ritrovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul nostro blog. Ciao a tutti, a domenica!